140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Centrale, Milano. La zuppa del demonio, un'espressione di Dino Buzzati in un film industriale del 1964, il titolo del nuovo documentario di Davide Ferrario. Devo a Sergio Toffetti, direttore dell'archivio del cinema di Impresa di Ivrea, l'insistenza perché io guardassi i materiali che sono conservati lì. Ho cominciato a guardarli e subito sono rimasto colpito dalla qualità di quello che c'era. E ho cominciato a partorire un'idea di narrazione, che è appunto questa, di raccontare l'idea di progresso nel Novecento. Da lì in poi ci sono cascato dentro, nel senso che i materiali sono meravigliosi e si è anche costruito un ragionamento molto personale su quello che è stato il mio partecipare al Novecento, perché adesso siamo dall'altra parte del secolo, ma insomma, quando ero giovane anch'io condividevo, come tutti, questo senso del progresso, che era buono, che lo sviluppo era buono a prescindere, che tutto, che potesse di destra o di sinistra, ma andare nello spazio o l'automobile, il frigorifero, erano delle cose buone che miglioravano la vita. Guardate, un paesaggio classico, il mare, la riva deserta, gli olivi, il sole, le cicale, la pace, la sonnolenza, tutto rimasto immobile e intatto dai tempi della Magna Grecia. Ma perché hanno devastato così? Perché? Perché gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione e miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio e che significa vita. Zuppa del demonio è un eccellente titolo, perché racconta dire, l'ambiguità di un sogno che diventa incubo. Se vogliamo usare uno slogan, c'è un sogno del progresso, del miglioramento della condizione di vita che dentro di sé c'ha già il germe del disastro e che però nel momento in cui lo sogna è meraviglioso. Ecco, questa parte qua forse ci siamo dimenticate, perché adesso non si può parlare di industria senza pensare subito al disastro, ai danni, ai problemi, l'impatto ambientale. Cioè, una volta questa cosa qua non ci pensavi, l'industria portava ricchezza, lavoro, e questo è un altro elemento secondo me fondamentale del film, la rappresentazione dei lavoratori che c'è, che è straordinaria. Cioè, come questi lavoratori, certo, magari confliggevi col padrone dal punto di vista della redistribuzione del reddito, della giustizia sociale, però ti sentivi parte di una cosa che tirava tutto nella stessa direzione. Non a caso alla fine del film c'è questa frase meravigliosa di Bocca che dice: se non si guardano quegli anni nella loro anche contraddittorietà non si capiscono le radici della crisi morale ed economica di oggi. Uno dice l'Ilva di Taranto, oddio, ci sono stati dei cattivi là e dei buoni, qualcuno è stato sfruttato. Sì, però quando è partita, certo, voglio dire, ci sono delle responsabilità penali anche, ma quando è partita quella cosa è stato tutto un paese che l'ha sognata. Era i comunisti che volevano portare alle masse affamate del sud il lavoro, gli imprenditori che volevano rilanciare l'Italia e fare i soldi, tutti convergevano verso quell'idea lì, anche gli intellettuali, e quindi non è che ti puoi chiamare fuori, e il film cerca di restituire quell'atmosfera lì perché ce la siamo un po' dimenticata, credo. Un braccio che non teme il fiato dell'inferno si introduce nella rovente tana, rovesciandovi gli ingredienti e le droghe per la zuppa del demonio. Il demonio acciaio, il mostro acciaio, l'imperatore acciaio, signore del mondo d'oggi. Ci sono due aspetti che sono correlati: il mecenatismo degli industriali che commissionavano a volte dei film bellissimi come Tre fili fino a Milano, eccetera, e la volontà di far crescere anche spesso intellettualmente gli operai, mi riferisco al caso dell'Olivetti. Sono aspetti interessanti che noi tendiamo a dimenticare, e li hai messi in luce. Sì, infatti è un fenomeno complesso quello dell'industrializzazione. Da una parte c'è la Fiat che visibilmente, quando documenta il lavoro in fabbrica, pensa proprio, iconograficamente alle sfilate fasciste, cioè tutti gli operai che vanno tutti puliti, precisi, uguali, che si mettono attorno, perfetti. L'Olivetti racconta un'altra storia, chiaramente. I commentatori della Fiat sono tutti sostanzialmente in-house che scrivono i testi, i copy di allora. L'Olivetti commissiona Fortini, Ottieri, Bigiaretti, un sacco di intellettuali che hanno lavorato per l'Olivetti, e sicuramente ha un'altra idea del ruolo sociale della fabbrica. Poi arrivano le aziende di Stato, l'ENI commissiona dei film appunto a Sciascia, Ferrara, per parlare del petrolchimico. L'Edison lavora con Olmi e Olmi ha tutto un suo percorso personale fantastico in cui racconta la grandiosità della costruzione delle dighe e dei fili, come dire, delle linee elettriche, ma con un occhio, un'attenzione all'operaio, al lavoratore, che è straordinaria. Per cui c'è un insieme di, anche lì, il meglio dell'Italia, quelli che ti davano un'occasione di lavorare, di parlare, di esprimersi, della gente come Olmi, Risi, che poi erano dei grandi intellettuali e poi sono diventati dei cineasti grandi, ma sono partiti da lì, insomma. Che sensazione ti ha lasciato al finire questo lavoro e che rapporto hai adesso con il Novecento? Appunto, da una parte devo fare i conti con la mia gioventù, cioè quindi ritornare lì e ripensare a quella cosa che davvero curiosamente uno si dice, ma come hai fatto a dimenticare in questi 30 anni che siamo venuti da lì? E che poi a forza di essere moderno uno si dimentica di essere stato anche un'altra cosa prima, stare in corsa dell'attualità. E poi il termine con cui definirei il rapporto che ho col film è struggente, nel senso, io vedo questa cosa qui e prima di parlare di idee o di fare ragionamenti storici, trovo che lì c'è davvero, cogli la grandiosità di un sogno pensato tutti insieme e di cui adesso, 40 anni dopo, cogli già i sintomi del disastro. Ed è, però in quel momento lì è proprio, è come quando vedi nascere un amore che poi sai che finirà male, e non puoi che sentirti male, ma allo stesso tempo dice com'è stato bello, è quello di nuovo che dice bocca alla fine, dice fa, è stato un periodo assurdo, le cose che oggi ci sembrano orribili allora ci sembrano bellissime, cioè come abbiamo fatto a crederci, eppure quello è stato un periodo felice, era una zuppa del demonio davvero. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Davide Ferrario. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.